Letture di Radio 24. Ogni scelta contempla anche la possibilità dell'errore. Lo sappiamo talmente bene e abbiamo raccolto talmente tante dimostrazioni che un gruppo di ricercatori si è convinto di potervi porre rimedio inventando dei metodi di incanalamento dolce delle scelte altrui su binari sicuri e virtuosi. Grazie all'applicazione delle scienze cognitive all'indagine delle decisioni economiche e non solo, conosciamo su scala sempre più ampia perché gli individui commettono errori e quindi come progettare istituzioni per contribuire ad evitarli. Ai governi e alla pubblica amministrazione si offre l'opportunità di integrare questa conoscenza con un nuovo approccio di politica economica che metta gli individui nelle condizioni migliori di decidere, attraverso ambienti di scelta, opportunamente congegnati, in grado di orientarli a fare la cosa giusta, ma che ne preservino al contempo l'autonomia decisionale. È questa, in sintesi, la Nudge Philosophy, ovvero una posizione che i suoi stessi promulgatori designano con l'ossimoro paternalismo libertario. Paternalista perché ritiene legittimo influenzare decisioni che rendano le vite dei cittadini più lunghe, sane e felici, ma libertaria perché gli individui sono liberi di scegliere quello che preferiscono. Una posizione attivamente abbracciata dal presidente degli Stati Uniti dopo che la sua vincente campagna elettorale era stata ispirata da quello che i rotocalchi hanno definito un Behavioral Dream Team di 22 economisti comportamentali. Ecco un caso di tutto rilievo. In America, ma non solo, il tasso di risparmio delle famiglie è prossimo allo zero e quello di invecchiamento cresce relativamente di più di quello dei lavoratori attivi. Pertanto, se non aumenteranno i contributi, le pensioni non potranno che diminuire. In questo secondo caso, occorre che i cittadini risparmino di più per quando saranno anziani. Come aiutare loro a farlo? Aderire al piano pensionistico americano è molto vantaggioso per il lavoratore, eppure il 30% non si iscrive. Tra questi, chi ne avrebbe maggior bisogno sono i giovani con basso livello di reddito. Questo accade perché il problema di scelta è stato architettato in modo che l'opzione di default sia la non adesione. Per aderire al piano occorre deliberatamente compilare un modulo e le persone tendono inerzialmente a lasciare le cose come stanno. Ma allora perché non fare sì che lo status quo sia costituito dall'iscrizione automatica al piano previdenziale? I dati mostrano che quando il problema di scelta è inquadrato in questo modo, le iscrizioni si attestano velocemente al 98% e che pochissimi dipendenti ritirano il piano sottoscritto in un secondo momento. In questo caso, semplicemente, l'inerzia decisionale è a loro vantaggio. L'Internal Review Service non ha perso tempo e ha recentemente promosso l'adesione automatica allo schema pensionistico e in Gran Bretagna il National Pension Saving Scheme prevede l'iscrizione per default a partire dal 2012. Come si può constatare, la Nugeocracy, il neologismo è del Wall Street Journal, ha fatto presa anche sul primo ministro inglese. Seppur di diverso orientamento politico, David Cameron ha creato una Behavioral Insight Team interna al gabinetto. Risultato, oggi la scelta di donare i propri organi è stata legata al conseguimento della patente, per cui all'atto di iscrizione alla motorizzazione viene automaticamente chiesto di esprimere la propria preferenza. Ancora, la spinta gentile relativamente al pagamento delle tasse fa leva sulla pressione sociale, rendendo cioè edotti i cittadini che il 94% dei loro compatrioti ha pagato regolarmente e puntualmente. Ma i nudge sono ovunque, volenti o nolenti. Anche dove non ce ne accorgiamo. Quando sottoscriviamo un mutuo o acquistiamo una casa, per esempio. O semplicemente quando compriamo le caramelle perché è accanto alla cassa del supermercato. In tutti quei casi, cioè, in cui siamo dilettanti allo sbaraglio chiamati ad affrontare un esercito di professionisti, bancari, agenti immobiliari, assicuratori, politici, eccetera, che cerca di piazzare i propri prodotti. L'architettura delle scelte, buona o cattiva che sia, è dilagante e inevitabile e influenza profondamente le nostre decisioni. Non esistono infatti architetture di scelta neutrali. Si è sempre spinti, più o meno gentilmente, a fare qualcosa. La Nudge Philosophy non intende imporre le scelte migliori, ma responsabilizzare chi progetta interventi architettonici a creare migliori ambienti di scelta, più semplici, amichevoli e trasparenti e quindi potenzialmente vantaggiosi per gli individui e la società. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Matteo Motterlini La spinta gentile che guida le decisioni, pubblicato dall'Inserto domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi. Anche l'agenda politica italiana, come il resto del mondo, è stata rivoluzionata da due fatti inaspettati: il terremoto in Giappone e le rivolte popolari nei paesi del Mediterraneo del Sud. Come hanno reagito nel nostro paese il centrodestra e il centrosinistra? La scossa sismica, naturale, che ha scosso il Giappone e quella politica delle rivolte popolari nei paesi arabi a maggioranza islamica hanno richiamato anche la politica italiana all'esigenza di affrontare temi strutturali. Dalle questioni economiche legate all'approvvigionamento energetico a quelle politiche e morali connesse all'esigenza di garantire i diritti umani in vaste aree del globo. La maggioranza di centrodestra, seppure attraverso le solite convulsioni, ha adottato su questi temi una linea improntata alla cautela. Una pausa di riflessione sul nucleare, una ricerca di soluzioni politiche alla crisi libica che diano un senso e una guida preferibilmente collettiva, cioè della NATO, allo sforzo militare per porre fine ai massacri in terra libica, sono scelte di buon senso che rendono difficile tenere aperto il clima di scontro che ha caratterizzato gli ultimi mesi. La maggioranza sembra avere recuperato un tasso accettabile di coesione, dopo che si sono stemperate le ultime intemperanze leghiste sull'anniversario dell'Unità d'Italia. In questo nuovo clima di partito di maggioranza relativa, il PDL di Silvio Berlusconi pare in grado di attenuare gli effetti più visibili della sua crisi interna, almeno nell'immediato. L'altra forza che si pone come baricentrica nel sistema bipolare, il Partito Democratico, non sembra invece, almeno per ora, in grado di sfruttare a proprio vantaggio le difficoltà della maggioranza. Il gruppo dirigente cerca di utilizzare l'antagonismo nei confronti del governo e del premier per giustificare posizioni che lasciano scoperte aree di pensiero interne, sia nell'area moderata, in particolare sulla questione della legge sulla fine vita, ma non solo, sia nell'area pacifista, che non è affatto entusiasta dei bombardamenti in terra libica. Il fatto che i sindaci di Torino e di Firenze, assai popolari nelle loro città, pensino che il loro partito non ha futuro, fa intendere che la delusione non è confinata in zone specifiche. Da che cosa nasce questo male oscuro che colpisce cronicamente una forza politica decisiva per l'equilibrio democratico del paese? Non è facile rispondere a tale quesito, che peraltro non sembra essere preso sul serio proprio da chi dovrebbe fornire le risposte, cioè da Pierluigi Bersani. Forse una delle ragioni sta in una certa sudditanza ad autorevoli e no impostazioni esterne al partito. In biopolitica, larga parte della dirigenza del PD con inesorabile frequenza si dedica all'inchino verso le verità rilevate del radicalismo nostrano. In politica internazionale è un fatto, e non c'è niente di male che Barack Obama sia considerato un punto di riferimento essenziale. E in politica economica nessuno può negare il peso che stanno assumendo le opinioni e le elaborazioni di tecnici di assoluto livello, come i non arruolabili Mario Draghi o Mario Monti. Obama però non tiene ovviamente conto prioritariamente degli interessi nazionali italiani e non ha difficoltà a convergere su alcune posizioni sostenute dal premier Berlusconi. Draghi e Monti esprimono oggi una visione liberale e riformista che crea problemi non piccoli con forze sindacali attestate su posizioni antagoniste come quelle proprie in questi anni della CGIL. L'effetto di questi riferimenti altri, qualcuno parlerebbe di sudditanze psicologiche, ha comportato forti oscillazioni nelle scelte programmatiche del PD, coperte solo parzialmente dalla ossessiva propaganda antigovernativa, che avrebbe avuto un senso alla vigilia di elezioni imminenti, ma che ora pare puramente ripetitiva. Servirebbe un ben più ampio sforzo di interpretazione della realtà italiana e del ruolo di un partito di centrosinistra che ambisce a essere di massa. Il problema non è che l'asse del PD sia spostato troppo a destra o troppo a sinistra, è che quell'asse è invisibile, il che provoca insoddisfazioni e anche emorragie neppure troppo sotterranee in ambedue le direzioni, di qua e di là. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Sergio Soave, L'asse invisibile, pubblicato da Avvenire del 24 marzo. Ogni decisione di usare le armi comporta delle riserve etiche e morali, ma l'orrore per la guerra non può tramutarsi in indifferenza e inazione verso le tragedie e i massacri che avvengono nel mondo. Non è necessario essere pacifisti militanti per sostenere che la guerra sia una cosa orribile e ingiusta. Almeno sul piano etico, è difficile accettare che qualcuno possa decidere di bombardare e uccidere, anche quando i bersagli siano terroristi o dittatori. La guerra giusta è come il rischio zero nel nucleare. Più grande è la falla nel sistema, più spazio c'è per polemiche e avvertenze prima dell'uso. ma l'orrore per la guerra non può tramutarsi in indifferenza verso massacri e impotenza della comunità internazionale di fronte a gravi violazioni dei diritti umani. Il mondo è lontano dall'ideale della pace universale di Kant. Occorre quindi l'accettazione di guerre giustificabili, se non giuste. È uno dei criteri fondanti delle Nazioni Unite. I diritti dei popoli sono più importanti della sovranità degli stati. Le polemiche sull'intervento in Libia e il rinfacciarsi tra destra e sinistra il sostegno a questa guerra o la condanna di guerre precedenti, dal Kosovo all'Iraq, avrebbero meno senso se alcuni punti fossero condivisi. In primo luogo, il fatto che pochi interventi militari internazionali abbiano avuto un sostegno e una legittimazione così ampi quanto l'operazione Odissea in Libia, decisa dopo una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, con il sostegno della Lega Araba e di molti paesi europei. Si può argomentare sul gallismo dei francesi, sugli eccessi di protagonismo elettorale di Sarkozy, sulle divisioni non sorprendenti dell'Europa, sul recalcitrare della Lega Araba dopo i primi missili, sull'opportunità o meno del comando NATO, ma sono appunti che non stravolgono la sostanza giuridica della decisione di bombardare la Libia. Tra l'altro, si tratta di un intervento multilaterale, non più soltanto occidentale, non più a guida americana. La Francia ha capito la posta in gioco e ha scommesso, con un occhio ai propri interessi, sul futuro della regione, che potrà essere incerto, però sarà probabilmente senza alcuni dei dittatori di oggi. Non è stato così per l'intervento in Iraq, deciso unilateralmente dagli Stati Uniti con il falso pretesto delle armi di distruzione di massa in possesso di Saddam. Non è stato così nemmeno in Kosovo, poiché il bombardamento della Serbia di Milosevic fu deciso in ambito NATO, adottando la tesi di un intervento difensivo. Solo successivamente intervennero le Nazioni Unite con una risoluzione che, fra l'altro, rispettava l'integrità della Federazione Jugoslava, così si chiamava ancora il paese di Milosevic, e non prevedeva l'indipendenza del Kosovo. L'intervento in Afghanistan fu legittimato dalle Nazioni Unite, che dopo l'attentato alle Torri Gemelle affermarono la necessità di combattere, con ogni mezzo, il terrorismo. Valse per gli Stati Uniti il diritto all'autodifesa. Furono sostenute dal consenso della comunità internazionale le operazioni in Somalia e a Timor Est. Purtroppo non si trovarono paesi volenterosi per arrestare i genocidi in Ruanda e Cambogia. Agli argomenti giuridici si possono muovere obiezioni sul piano morale. Milosevic e Saddam erano meno rispettabili di Gheddafi? E nei confronti di Milosevic e di Saddam, l'Occidente non aveva intrattenuto quel genere di rapporti ambigui che oggi vengono ricordati a proposito del Rais libico? Le vittime della pulizia etnica nella ex Jugoslavia o della dittatura di Saddam erano più innocenti dei cittadini di Bengasi? La risposta, per quanto insoddisfacente, non può essere che politica. Nel caso dell'Iraq è arduo negare le conseguenze dei bombardamenti sulla popolazione civile, lo stillicidio di attentati seguito all'occupazione militare, l'instabilità, il prezzo pagato dall'America e dall'Occidente in termini di immagine ed esposizione al terrorismo. Per fare la guerra a Saddam si è scoperto il fronte afghano, si è permesso che il terrorismo accentuasse la presenza nel paese, si sono forniti argomenti al fondamentalismo islamico. Nel caso del Kosovo, le durissime operazioni della polizia serba avrebbero portato Milosevic al tribunale dell'Aia per crimini di guerra. Si decise di appoggiare la secessione organizzata dai guerriglieri kosovari, anche se poi fu la democratica rivoluzione dei serbi a cacciarlo. Nel caso della Libia, molte condizioni giuridiche, politiche e morali sembrano rispettate, senza contare che in Libia, come in larga parte del mondo arabo, è in atto una rivoluzione per affermare libertà e diritti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Nava, Kosovo, Iraq, Libia, pubblicato dal Corriere della Sera del 24 marzo.